Ora, c'è qualcuno su 10? Ora? Aspetta un attimino Luca, che sto controllando una cosa, non mi accendo l'alimentatore. Beh, Jukebox com'è andato? No, peccato, non ho amico, io già, perché lo dovevo parlare al naso. Mi stava chiedendo informazioni. No, vabbè, dai, non c'è problema. Oggi ho bruciato l'alimentatore, ha fatto ci. E poi non l'ha più acceso. Adesso è a posto, ma io c'ho sempre quelli cinesi, ho tutto modificato da me. Ed è perfetto, 50 ampere. Anche io ce l'ho, quello cinese, va benissimo. Ho messo anche il tasto sopra. Beh, certo. Ho tagliato due finestrelle sopra, quelle finestrelle che c'ha per raffreddare. Le ho tagliate e ci ho fatto stare il tasto. Ah, ho capito, sì. Come ho fatto io? E già vanno bene, dai. Però questo qui mi sembra strano, perché funzionava fino all'altro giorno. Ha fatto... Ma questi cinesi? Ah, di quelli buoni, con gli strumenti, con tutto. Ho capito. Io c'ho il microfono a uno, media, va bene. Che la voglia. Ma tu hai spento poco fa, oppure c'è? Ho telefonato. Ma... Io gara di cazzo. Ma sai cos'è? Devo... Perché io c'ho un paio di cuffie, ma non riesco, non mi trovo bene. Io vorrei, cazzo, un paio di cuffie. Sì, ok. E il microfono quelli male un po' più buoni. Allora, le cuffie buone sai quali sono? Quelle che si usano per i giochi. Io avevo comprese quelle che avevano un suono bellissimo, però si sono imballate. Infatti è quello, che non funzionavano più. Ma ne avevo pagate 75 euro mi pare. Lo so, ci sono le cuffie buone. Queste qua che ho comprato c'era solo un coso, uno spinotto, poi c'è gli altri, quelli che usavo prima, due. Ah, il PC sta una pagina, un rossolo di spinotto che fa audio, c'è microfono, microfonia e cuffia. Ma ci sono gli adattatori, da 2 a 1 ci sono gli adattatori. Sai cosa il cacchio che è successo? Ma cosa c'hanno? Fusibile dentro, no? Alimentatore. Sì. Mi da, da vedere già, da vedere cosa è successo, apro, da vedere, poi mi fai sapere, mando qualche foto. Magari, come si dice, magari una cazzata, c'è qualche condensatore, provo a vedere. E se parte il coso, il fusibile, c'è qualcosa che non va. In New Zealand is in the clear. Hey, Chip, when we shut this down, we're going to call your name and see if we can get out and shake it loose. Blue Chip, Blue Chip break. Chip, this ain't no contact on the Chip. No rides on the Chip, no contact. No get back on Blue Chip. We're going to leave him alone. We're going to go back no more. Your Jones in New Zealand is clear. Luca non c'ha niente, è la ciabatta che c'è qualche entrata in ballata. Ho messo un'altra entrata e va bene. Chi sei Luca? Ok, chia. Hola. Ok. Hey, Rhea. Forever and Dr. Talk too much. Superman out of Brooklyn. Lou Jones in Louisville is standing by. Get your mind off of Brooklyn. Talk too much. Lord Jones is standing by. Mother Nature just ain't doing it right. Treat me like a side piece today. She made sense. Lord Jones and Lord Will got down. Hey, John, I already came out. Hey, yeah. quel torno l'entrata della ciabatta, lo cambia di entrata e adesso funziona. Ah, meglio così, da, meglio meglio. Strano, come la c'era la e quello non ha più funzionato. Ah, beh, certo. E gira il tuffo. C'era che cazzo ne sei stato? C'era quando ho cantato Alleluia oppure non hai sentito Alleluia? Sì, l'ho sentita. Beh, diciamo che non è facile cantare Eligia. Non è che sia facile. Lascia vedere, aspetta, sto guardando una cosa. Sto una tazza di notte. Ha fatto danno. Ma sui cazzo la batteria? Non so manco che cazzo la batteria sia questa qua. Non so manco cosa cazzo è questo qua. Non forse questo qua va qua. Qua la tiga. Una cassa mi è andata a sistemare. Però mi sa non si può fare niente. C'è gente che canta lì, però c'è tutto l'impianto, c'ha le casse, c'è tutto quanto. Il mixer, il microfono di quelli professionali, e cantano lì. Lo so, l'ho visto. Gente, io stamattina mi hanno detto che c'è gente che spende anche 30.000 euro. E 70.000 euro in chi mi impegno? Che 70.000 euro mi voglio una casa? No, vabbè, una casa non visci, però, cazzo. E una casa piccola già c'esce. Ma sì, è un gioco d'azzardo, Luca, un po' camuffato con la musica, però è un gioco d'azzardo. Quello che loro vogliono è che la gente spenda soldi, capito? Che compri, che carichi le carte. Guarda, su TikTok usa 5 euro ho speso per prendere dei regali, 5 o 10 euro se non mi ricordo. Ma io non l'ho mai speso, sono soldi buttati, non guadagni nulla, cosa guadagni? Infatti, è quello. Sono a fondo perduto, se fosse per guadagnare qualcosa come gratte vinci, che ha la possibilità di vincere qualcosa, ma a casa in chimica non mi si illuda, carichi e perdi e basta. E c'è uno che si chiama Taurus lì che è il manager per venderti le carte, per caricarti la carta, capito? Ma tutti lui fa. Tante volte me l'hanno chiesto, ma non l'ho mai accettato. Beh già, immagino, sì, non è stato proprio lo spinotto, no, il connettore. Che cazzo, che cazzo fai? Vedo un casino. Che connettore? Quello dei telefonini. Ma l'attacco femmina, quello che c'è dentro il telefono. Quello piccolo, quello vecchio, però quello, non quello nuovo che c'è adesso, quello vecchio. Beh, non ho trovi uno a seconda mano di quei telefoni fasciati. No, ma non è quello il discorso, ma è vuole nuovo, cazzo, cosa lo disaldi da lì? Lo rompi, non stai scherzando. Lo rompi già. Lo rompi, capito? Si trova nuovo. Sì che si trovano. E allora basta, se si trova nuovo, prendiglielo nuovo. Vabbè, si trovano, vediamo se riesco a trovarlo per questo. Per questo modello qua. Non so ma come sono fatti, boh. Non l'hai aperto il telefono. Ah? Non l'hai aperto il telefono. Il telefono. E che connettore è? Non è il telefono. Quello il telefono è. Ti ho detto, l'hai aperto all'interno per vedere come. Non c'è il connettore, ne hanno incazzato, non so che fine ha fatto. Che telefono? Non è un telefono, una cassa. Ah, una cassa è. Una cassa. Beh, diretto non lo puoi mettere nel filo, non ho capito. Se non c'è il connettore lo metti diretto dall'interno, se lo salvo. Ho capito, lo metto diretto e poi? Non ti sto capendo. Cavo è, il cavo audio. Cazzo già. Questo qua è la batteria, quello nero, quella è la batteria. Quella è la batteria, mi dice batte qua, batteria. Dalla pomponio. Dove è pomponio? Eh? No, adesso dalla pomponio, aggiustato lui. Ah, non ce la fa manco lui, ho già dalla pomponio. Non ce la fa manco lui già. Ma tu a me non mi hai detto ancora che cosa sei aggiustato, una cassa. Una cassa di che cosa? Di stereo, di che cos'è? Una cassa Bluetooth, già, di quelle portatili, che sembra contro lei. Ho capito. Sì, ce l'ha anche Manuela quella lì. C'è quella, aspetta come si chiama, GBL. GBL. No, è GBL, lì si cinesi, E allora, la gente si appinta già a fare, non devi dire che la compra in Ginuva. Ma infatti. Io non so il telefonino che casa di attacco, c'ho l'impianto dove c'è il computer che poi non so più usato perché è lento, ma calendario. Non viene me la dirlo, poi io mi sono letto oramai, non lo uso più, non lo sto più usando. E c'ho tutto l'impianto lì, no? C'ho l'impianto karaoke, io ho tre impianti karaoke. E c'ho l'impianto karaoke lì e in più c'ho le casse, consumo, eccetera, eccetera. Io attacco le casse, consumo, il telefonino mi ascolto la musica come. Vedi, accendo. Lasciamo adesso, attacco il Bluetooth, aspetta. Ma perché cosa la usano quella cassa lì? Io non lo so manco, ma cosa la danza per ascoltare musica. Attenzione, canale 23, c'è qualcuno? Canale 23, mi salutissimi. Ah, è vero. Ma tu già mai non mai sei te? Poco fa io sono 23, capito? E poi girato un po'. Oh, yeah, è una sabato. Lasciamo adesso, così. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, Italia, fa chiamate se sintonizza l'ascolto, ricorda. Aio. E non mi va di mai, eh? Che è là. Sì, ma in radio devi parlare. Grosso. Guarda, sto parlando io, sono 10, guarda se mi senti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua è tutta... E allora non funziona. Sì, nulla, mi sto parlando io, niente, non mi sento. Non mi sei io? Ma parlare tu? Io e sto parlando, tu non ricevi me, io non ricevo te. Allora, attenzione a canale 10, canale 10, che c'è all'ascolto? Allora vediamo se mi ricevi. Tu sei saturo a morte. Io non mi sento. Ah, eccomi adesso. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canali 10, modalità AM. Sei sempre saturo. Guarda, il segnale è anche 9.25, quindi il segnale è ottimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasi sono 10 watt. Aspetta un secondo, aspetta che salgo appena. Così. E se non mi viene male. Ecco qua. 1, 2, 3, quasi 50 watt, come facevo prima. Sì, adesso sta andando, adesso hai migliorato anche di radio, eccetera, però ho chiesto perché prima non ricevevi e non trasmettevi. Cosa hai toccato per essere capibile, cioè per arrivare qua? Non lo so, niente è toccato, la verità, comunque sia. sono appena attento poco fa da solo, figurati tu, ho sistemato l'altella, è a posto. Ma non è che era freddo il campo, è a posto, vedi, quella parte PL. Senz'altro sì, magari sì. E ascolta, dallo a me il segnale, vedi un po', senza parlare. Ecco qua, mi interessa senza parlare, portante molto. 9.26. Più 20 hai detto, 9.20. Sei 9.20, tondo tondo, quindi a voglia. Eia, ma chissà cosa ha avuto l'apparato, o quello che è, insomma, perché prima te l'ho detto. Mi serve il QRM, tu lo stesso, io non ti sentivo, tu non mi sentivi. Ora. Ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu. Hello.